Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ringrazio a tutti voi, gli auguri per il mio prossimo compleanno. Grazie tante. Ma vi dirò una cosa che vi farà ridere. Nella mia terra fare gli auguri in anticipo porta la gliela. E non solo in Argentina, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, insomma il Papa così, diciamo, si concede di essere un po' scaramantico. E con questa leggerezza iniziamo, ma in realtà i temi sono belli sostanziosi anche questa sera, effetto notte, perché torneremo naturalmente sul neonato governo Gentiloni, perché oggi, dopo aver ottenuto ieri la fiducia alla Camera, oggi l'ha tenuta al Senato. Ma è scoppiata, si può dire, una polemica su una dichiarazione che ha fatto il ministro del lavoro Poletti, il quale ha detto che a proposito del referendum che si dovrebbe fare sul Jobs Act, si voterà in realtà prima per le elezioni e poi per il Jobs Act. In questo modo ha fatto capire che in realtà ha vita breve questo governo. Poi ha cercato di raddrizzare un po' il tiro, però Guerini, il vice segretario del PD, questa sera nella registrazione di Porta a Porta ha detto: ma non escludo che si possa votare a giugno. Insomma, quanto durerà questo governo? Di nuovo, dalla sua nascita già questa domanda aleggia costantemente. Ne parleremo, così come ci occuperemo anche di questa scalata ostile di Vivendi, il colosso multimediale nei confronti di Mediaset. Cercheremo di capire bene qual è la vicenda e poi per la cronaca torneremo sul caso del medico di Vignola vicino Modena al quale era stato gettato dell'acido sul viso. Lui sta molto meglio, sentirete anche una sua dichiarazione, e sembra che sia stato arrestato il colpevole che l'avrebbe colpito per gelosia, per un sentimento di vendetta, perché sarebbe ora il medico con quella che era stata l'ex compagna di quest'uomo, tanto per dire, insomma. Questi uomini. Adesso partiremo tra poco con il riassunto della giornata, i fatti più importanti come sempre, però vi ricordo che per interagire con Effetto Notte c'è la pagina Facebook di Effetto Notte e poi il numero per i messaggi per i WhatsApp, che è sempre 349-238-6666, 349-238-6666. Partiamo. Governo Gentiloni, anche il Senato vota la fiducia, il ministro Poletti dice elezioni prima del referendum sul Jobs Act, il vice segretario del PD Guerini non esclude il voto a giugno. Terremoto, via libera della Camera al decreto. Scalata Mediaset, i francesi di Vivendi al 20% del capitale, Berlusconi commenta, operazione ostile, il ministro Calenda sottolinea, monitoriamo. Siria salta la tregua, anche ancora le bombe su Aleppo, rinviata l'evacuazione di civili e ribelli. Stati Uniti, la Fed alza i tassi di interesse di un quarto di punto, è il primo aumento dal 2016, il secondo dal 2006. Grecia, l'Eurogruppo gela Atene sul debito, è inadempiente e quindi stoppa gli aiuti e le concessioni. De Luca ha indagato, l'ipotesi di reato del governatore della Campania è istigazione al voto di scambio. Lui commenta, avanti tranquilli o moriamo di avvisi. Intervento eccezionale a Torino, rene al posto della milza, primo trapianto al mondo, l'intervento su una bambina di 6 anni in dialisi dalla nascita. E poi i più potenti del mondo, il primo nella classifica di Forbes è Putin, il presidente russo precede Trump e Merkel. Partiamo quindi dalla fiducia ottenuta oggi dal governo Gentiloni al Senato, dopo averla incassata ieri alla Camera. Al Senato sono stati 169 i sì, 99 i contrari, 0 gli astenuti. Ala e Lega non hanno partecipato al voto, mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contro. Il governo di Matteo Renzi, il 25 febbraio del 2014, aveva ottenuto la prima fiducia al Senato proprio con lo stesso numero di voti favorevoli. E tra le priorità del governo Gentiloni ci sono anche le banche. Paolo Gentiloni ce la fa anche in Senato. Dopo la Camera, malgrado i verdiniani escano dall'aula, il governo ottiene 169 sì, 99 no. Un esecutivo, spiega il Presidente del Consiglio, nato soprattutto per fare la legge elettorale. Questa è un'esigenza del sistema e delle istituzioni, non è una valvola da aprire o chiudere a seconda dell'urgenza o minore urgenza dell'appuntamento elettorale. Il Movimento 5 Stelle viene redarguito da Gentiloni a seguire i lavori in aula, infatti resta, espone i cartelli con scritto 20 milioni di no e vota no alla fiducia, mentre la Lega preferisce uscire per protesta, il capogruppo Gianmarco Centinaio. E quindi usciremo dall'aula, però pensavamo, uscendo dall'aula, cari colleghi giornalisti, di fare una cosa eclatante, ma siamo già stati anticipati dal Partito Democratico, non c'è nessuno in aula. Ala di Denis Verdini non dà l'appoggio al governo, ma nemmeno gli rema contro, ed esce dall'aula, mentre votano sì due senatori a vita, Giorgio Napolitano e Mario Monti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E la Camera oggi ha approvato definitivamente, con 441 voti favorevoli e nessuno contrario, il decreto legge che contiene misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto di quest'estate nel centro Italia. E poi c'è il nodo Jobs Act, la consulta alla Corte Costituzionale deciderà sul referendum a inizio gennaio. L'ipotesi di elezioni subito scongiurerebbe il rischio di affossare un'altra riforma simbolo del governo Renzi. Rischia di diventare un mese decisivo il prossimo gennaio per i destini della legislatura. L'11 la consulta si esprimerà sull'ammissibilità di tre referendum abrogativi. Il 24 sarà poi la volta dell'Italicum. Se per la legge elettorale però c'è l'impegno del nuovo esecutivo e di parte delle opposizioni per un intervento condiviso, più incerto è lo scenario qualora la Corte Costituzionale dovesse dare il via libera in particolare al referendum sul Jobs Act. Questo comporterebbe di fatto una nuova campagna referendaria che metterebbe in difficoltà soprattutto il PD, visto che la legge è stata approvata dal governo Renzi. Ad aprire il caso le parole del ministro del lavoro Poletti. Se si vota prima del referendum il problema non si pone, spiega il ministro. In effetti, qualora la legislatura terminasse tra pochi mesi, la legge prevede un congelamento dei referendum. La CGIL però non ci sta e la Camusso replica: insistere sullo slittamento del quesito significa non avere il coraggio di affrontare i problemi. Critiche anche dalla minoranza PD, più che invocare le urne. Per evitare che si svolga il referendum è necessario intervenire subito sul Jobs Act a partire dai voucher, commenta Speranza. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E preoccupata per l'eventuale referendum sul Jobs Act anche Confindustria. Dal centro studi è stato rivisto in rialzo intanto il PIL, allarme però per i numeri della povertà. L'Italia torna a crescere lentamente e il centro studi di Confindustria rivede al rialzo l'aumento del PIL. Quest'anno il prodotto interno lordo registrerà un incremento dello 0,9% contro lo 0,7% stimato in precedenza. La crescita continuerà anche nel 2017, attestandosi a più 0,8% da 0,5% e nel 2018 raggiungerà l'1%. Ma l'orizzonte non è privo di rischi. Incertezza politica, occupazione e povertà in aumento possono deprimere la crescita. L'ansia sul futuro, dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, rischia di far perdere l'attenzione sui nodi strutturali del paese. E il possibile referendum sul Jobs Act promosso dalla CGIL può peggiorare lo scenario. Abbiamo fatto il Jobs Act, adesso c'è il referendum, se arriva il referendum cosa accade? Io attendo, non assumo. Ecco, questi sono i capolavori italiani dell'ansietà e della incertezza totale e i motivi per cui gli imprenditori italiani sono i più bravi al mondo, perché vivono in condizioni perenni di incertezza. Cioè. Timori e incertezze, auspica Boccia, vanno rimossi con politiche di bilancio di medio termine e l'impegno del governo a guardare anche all'economia reale e non solo a una nuova legge elettorale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto c'è la mano tesa all'Italia da parte dell'Europa sul fronte migranti dal presidente Juncker alla vigilia del vertice europeo, il primo a cui partecipa Gentiloni, dedicato proprio all'immigrazione e alla tragedia di Aleppo. Non possiamo lasciare l'Italia da sola, e non lasciarla sola significa che i fondi che questo paese spende per l'accoglienza dei migranti non possono rientrare nel campo di applicazione del patto di stabilità. Così il presidente della Commissione europea Juncker: l'Italia fa molto per i migranti, afferma perentorio il numero uno dell'esecutivo UE, e questo non può e non deve avere conseguenze negative in termini di bilancio. Darf nicht zu haushalterischen Konsequenzen negativer Art in Italien führen. Questa volta la presa di posizione ufficiale. Juncker parla dinanzi alla plenaria di Strasburgo alla vigilia del Consiglio UE, in cui si affronterà soprattutto il tema migranti. Dossier spinoso sul quale i paesi sono divisi, a partire dalla riforma del Trattato di Dublino che regola l'arrivo dei profughi in Europa, e con la proposta della presidenza di turno slovacca che punta a superare il principio della solidarietà. In occasione del vertice Juncker ha ricordato poi che i leader saranno anche chiamati a fare il punto sulle iniziative messe in campo per combattere le cause dell'immigrazione, in particolare 5 partenariati con i paesi africani, ma anche un'eventuale maggiore collaborazione con altri paesi di origine e transito. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E dell'infinita tragedia di Aleppo poi torniamo a occuparci più tardi, qui nel corso di Effetto Notte. Ma tornando invece all'Europa, Bruxelles gela la Grecia. Le azioni del governo greco, dice, non sono in linea con gli accordi e quindi per ora non c'è unanimità per attuare le misure a breve termine sull'alleggerimento del debito. Questo l'ha detto il portavoce del presidente dell'Eurogruppo in un comunicato. E adesso siamo sulla scalata a Mediaset. Il colosso francese delle telecomunicazioni Vivendi è salito al 20% del capitale, lo afferma il gruppo francese in una nota dopo che ieri Vivendi aveva annunciato di essere al 12,32% del biscione. Berlusconi commenta: operazione ostile, ma non ci ridimensioneranno. E il ministro dello sviluppo Calenda sottolinea in una nota: il governo monitora l'acquisto di azioni Mediaset da parte di Vivendi, un'operazione che potrebbe configurarsi, dice, come una scalata ostile. Poi, come vi dicevo, cercheremo di fare chiarezza un po' su questa vicenda. La Fed, la banca centrale americana, alza i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli dallo 0,50 allo 0,75. Si tratta del primo aumento del 2016 e del secondo da 10 anni a questa parte. E poi la notizia di De Luca indagato dalla Procura di Napoli. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, è iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di istigazione al voto di scambio sulle sollecitazioni fatte per il sì al referendum in un incontro con i sindaci della Campania. Il passaggio del fascicolo da fatti non costituenti reato all'ipotesi appunto di istigazione è spiegata dagli inquirenti con la necessità, dicono, di svolgere alcuni interrogatori di persone informate sui fatti. De Luca, in questi incontri con i sindaci, li incoraggiò invitandoli anche a offrire fritture di pesce pur di convincere gli elettori a votare sì al referendum. Quando hai la coscienza tranquilla, ha commentato De Luca, si va avanti, oppure qui moriamo di avvisi di garanzia, mentre i cittadini non hanno neanche i servizi essenziali. E invece a Roma, in Campidoglio, rissa sfiorata tra PD e Movimento 5 Stelle sulle dimissioni dell'assessora all'ambiente Paola Muraro. Nel caos, gli esponenti del Partito Democratico volevano che la sindaca Virginia Raggi oggi riferisse appunto sul caso Muraro in apertura della seduta, ma quando la richiesta è stata dichiarata inammissibile è scoppiato il caos che avete sentito. E a Roma, invece, parlando di smog, anche oggi stop ai veicoli inquinanti, mentre braccio di ferro fra smog e sindaci, soprattutto nelle città del centro-nord. A Torino domani intanto si replica. E siamo alla cronaca. Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio dal GUP di Milano con le accuse di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione in relazione a quei circa 2,6 milioni di euro trovati in parte in un controsoffitto e in parte in due cassette di sicurezza in Austria. Il processo inizierà il prossimo 25 gennaio. E ancora per la cronaca, i carabinieri del comando provinciale di Modena hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla procura della città emiliana nei confronti di un 59enne modenese indagato per l'aggressione con soda caustica del 10 novembre scorso, vi ricordate, a Stefano Tondi, primario di cardiologia all'ospedale di Baggio Vara, e al figlio Michele. L'accusa è di tentato omicidio e lesioni personali aggravate, e sembra, per quanto riguarda le motivazioni, che appunto l'aggressore volesse vendicarsi per una questione di gelosia. Torneremo poi a parlarne nel corso di Effetto Notte. Vi do notizie anche di questo intervento eccezionale che è avvenuto a Torino, per la prima volta al mondo, alle Molinette della Città della Salute di Torino, un trapianto di rene al posto della milza. La tecnica innovativa e rivoluzionaria utilizzata su una bimba di 6 anni in dialisi dalla nascita per un'anomalia dello sviluppo del rene, associata a una malformazione dei vasi sanguigni addominali che le impediva sia di bere che di urinare. L'asportazione della milza ha permesso l'impianto del rene, altrimenti impossibile, su vasi plenici della stessa milza. E per chiudere la classifica dei più potenti del mondo, il presidente russo Vladimir Putin resta la persona più potente del mondo davanti al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump e alla cancelliera tedesca Angela Merkel, secondo la classifica annuale questa di Forbes pubblicata oggi. Per Putin, 64 anni, è il quarto anno consecutivo in testa, quasi come Cristiano Ronaldo, insomma, col pallone d'oro. Bene, adesso ci fermiamo dopo questa sintesi della giornata e poi cominceremo, come sempre, dopo la viabilità a approfondire alcuni temi in specifico. Ci sarà la politica, Vivendi, poi parleremo anche della situazione terribile, disperata di Aleppo e di molti altri temi. 349-238-6666 per i vostri per le vostre interazioni, oppure c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte. Un ascoltatore già si informa, dice: hanno alzato i tassi in America, il Dow Jones come risponde, dice Francesco. Allora vediamo subito il Dow Jones. Wall Street gira in negativo, Dow Jones meno 0,29%, il Nasdaq se interessa anche il meno 0,27%. Questa la reazione, e poi altri messaggi a tra poco. Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Bene, notizie in 60 minuti come sempre dalle 21 alle 22 tutte le sere con me Roberta Giordano per avere il quadro aggiornato delle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Allora la sintesi della giornata all'inizio, adesso cominciamo ad affrontare alcuni temi e poi le vostre interazioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Tra poco parleremo della scalata di Vivandia a Mediaset per capire meglio di che vicenda si tratta e poi parleremo di politica. Tra l'altro sono stati pubblicati dei sondaggi, anticipati dei sondaggi che ci saranno questa sera Porta a Porta, realizzati per Porta a Porta, secondo i quali prenderebbe circa il doppio un PD, un partito di Renzi prenderebbe circa il doppio di un PD senza Renzi, sia per IPR che per Tecné. Queste due società di sondaggi, il PD attualmente è al 30%, un partito di Renzi avrebbe invece il 21%, per IPR il 19% per Tecné. Comunque dopo ne parliamo, invece adesso vi ricordo, se avete acceso puntualmente la radio alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. In furia la battaglia su Mediaset, Vivendi sale al 20%, il ministro Calenda dice sono modalità inappropriate, Berlusconi dice non ci ridimensioneranno e di questo parleremo tra poco. Gentiloni, il governo Gentiloni incassa la fiducia al Senato dopo aver incassato la fiducia alla Camera ieri, dice ora priorità alle riforme, ci sarà il primo consiglio dei ministri e poi comunque oggi non hanno, Movimento 5 Stelle ha votato contro mentre Ala e Lega non hanno partecipato al voto. Ad Aleppo fallisce l'evacuazione, nella città siriana riprendono le stragi, per Mosca la colpa è dei ribelli, i ribelli invece accusano l'Iran, insomma uno scaricabarile. Poi a gennaio, per quanto riguarda sempre la politica italiana, la consulta si esprimerà sul Jobs Act, ma è già battaglia per le dichiarazioni di Poletti. Tensioni a Roma sul caso Muraro, sfiorata la rissa fra Movimento 5 Stelle e PD, polemiche in aula in Campidoglio durante la seduta per il bilancio, avete sentito il caos. E poi il reddito familiare spacca il paese, sfiducia nei partiti, Confindustria intanto alza le stime sul prodotto interno lordo, ma i poveri in Italia sono 5 milioni. E poi questo intervento eccezionale alle Molinette di Torino, un rene al posto della milza, un intervento su una bimba di 6 anni in dialisi dalla nascita. E ora occupiamoci appunto della scalata di Vivendi a Mediaset che negli ultimi giorni ha fatto schizzare il titolo in borsa. Il patron di Vivendi, colosso francese dei media e delle telecomunicazioni, il patron che Bolloré ha fatto sapere nel tardo pomeriggio di oggi siamo al 20% di Mediaset, cioè abbiamo in mano il 20% delle azioni di Mediaset. Silvio Berlusconi ha avvertito non ci ridimensioneranno, contestando duramente la scalata ostile e di scalata ostile, di modalità non appropriate da parte dei francesi. Ha parlato anche il ministro dello sviluppo Calenda, ma ci facciamo spiegare bene questa vicenda da Marco Moussanet, corrispondente della Francia del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Allora, ci spieghi con molta chiarezza di cosa si tratta, che cosa sta succedendo. Ma direi l'obiettivo di Bolloré è abbastanza chiaro ed è stato più volte spiegato. Vivendi è un gruppo di produzione di contenuti, televisione, cinema, musica, serie televisive, fiction, e è un gruppo, come dire, però relativamente piccolo per poter competere con i colossi del settore, i colossi mondiali del settore, basti pensare a Netflix, che è un grande attore che ormai conosciamo anche in Italia. Allora, il problema di Vivendi e di Bolloré è quello di crescere, cioè di costruire un gruppo più grande di produzione di contenuti, e in questo senso andava l'accordo che ad aprile scorso avevano raggiunto Vivendi e Mediaset, e che poi è saltato per una serie di ragioni, per una serie di dettagli, insomma, che non stiamo qui ad approfondire. Vivendi, Bolloré continua a ritenere che l'alleanza con Mediaset è un'alleanza assolutamente vitale e strategica per creare questo grande gruppo europeo, in particolare incentrato sull'Europa del Sud, quindi Francia, Italia e Spagna, dove la presenza di Mediaset è importante, quindi ritenendo che questa alleanza è comunque vitale per il futuro di Vivendi, ha deciso di passare all'attacco, di rompere gli indugi e di mettere pressione su Berlusconi, insomma, e su Fininvest, quindi, insomma, per costringerli in qualche modo a scendere a patti e a firmare un accordo che vada nella direzione della costruzione di questo grande gruppo. Cioè dice Vivendi, Bolloré, se tu non ti vuoi alleare con me, allora io ti assalgo? Sì, diciamo, sì, io esercito una pressione molto forte per cercare di costringerti in qualche modo ad allearti con me. Visto che, in teoria sulla carta c'è anche la possibilità che questo ingresso di Bolloré in Mediaset possa a medio termine trasformarsi in un'opa ostile, quindi nel tentativo di acquisire l'intera società. Al momento sembra questa una prospettiva abbastanza difficile, visto che Fininvest, insomma, Berlusconi ha circa il 40%, quindi mi sembra molto difficile. Cioè, il messaggio per il momento è un messaggio appunto molto aggressivo, sicuramente, per dire: noi non intendiamo mollare l'osso, per noi questa è un'alleanza strategica importante, quindi noi entriamo in modo forte, pesante dentro il gruppo, non potrai fare a meno di noi, in qualche modo, perché saremo una presenza rilevante, quindi sei costretto in qualche modo a scendere a patti e ad allearti con noi. Questo è per il momento il messaggio che Bolloré ha deciso di lanciare con questo ingresso al 20%. Oddio, ci sono anche altri aspetti. Sicuramente Vivendi aveva anche il problema di evitare che qualcun altro si potesse alleare con Mediaset e che gli potesse in qualche modo rubare la presa, Murdoch, Sky, insomma, e quindi ha deciso in qualche modo che era il momento di entrare in azione, di dimostrare quanto è determinato nel raggiungere questo obiettivo. Bene, vedremo nei prossimi giorni. Grazie a Marco Mussanè da Parigi. Ciao Marco. Grazie a voi, ciao. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello sulla mozione di fiducia al governo presentata dai senatori Zanda, Bianconi e Zeller. Senatori presenti 269, senatori votanti 268, maggioranza 135, senatori favorevoli 169, senatori contrari 99, astenuti 0, il Senato approva. Avete sentito il presidente del Senato Grasso, quindi ha dato i risultati dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera con 368 voti. Ieri il neonato governo Gentiloni, oggi, come avete sentito, ha incassato anche la fiducia al Senato con 169 sì. Ne parliamo con la nostra Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara, rieccoci qui. Buonasera. Allora, farei sentire anche altri passaggi di Gentiloni, dove dice, dove conferma, insomma, come ha detto anche ieri alla Camera, che il governo è stato fatto in fretta e in continuità per dare stabilità al Paese. Sentiamo. Lo abbiamo fatto in modo molto rapido. 9 giorni fa il referendum, una settimana fa le dimissioni del Presidente Renzi, 2 giorni fa l'incarico al sottoscritto di formare il nuovo governo. Non per impazienza, ma perché credo sia a tutti evidente l'importanza di dare all'Italia istituzioni stabili e certezza in un contesto come quello attuale. E aggiunge poi Gentiloni: vogliamo continuare a innovare e a portare avanti il Paese come ha fatto il governo precedente. È un governo che innanzitutto deve completare la eccezionale opera di riforma, innovazione, modernizzazione che è stata fatta in questi ultimi anni. Non c'è dubbio, io credo. E anche oggi, come ieri alla Camera, Lega e Ala, l'ala di Verdini, non hanno partecipato al voto. Il Movimento 5 Stelle invece ieri era uscito, oggi ha votato contro. Allora Barbara, al di là di questo, ormai il governo, diciamo, è varato. Prima di passare ad altri aspetti, ci dici quali sono le prime cose, le cose più urgenti che deve fare questo governo? Intanto c'è c'è tutta la questione bancaria, insomma, che continua a essere l'argomento, diciamo, più urgente da tenere sotto controllo. E poi ci sono tutti i decreti che devono accompagnare la manovra, che vanno fatti, perché la manovra e la legge di stabilità è una cosa, poi ci sono tutta una serie di atti che l'accompagnano. Abbiamo visto che la manovra è stata varata in brevissimo tempo, peraltro con una doppia lettura, nel senso che il Senato ha certificato il testo della Camera, non è intervenuto in modifiche proprio perché le dimissioni di Renzi erano irrevocabili e imminenti, e quindi a questo punto ci saranno una serie di provvedimenti che il governo dovrà varare. Dopodiché, cosa farà questo governo è un punto interrogativo sempre legato a quanto durerà questo governo. Senti, oggi è scoppiata la polemica perché il ministro confermato, ministro del lavoro Poletti, ha detto, a proposito del referendum di cui già parlavi anche tu ieri, no, sul Jobs Act, ha detto andremo prima alle elezioni e poi si parlerà del referendum sul Jobs Act. Questo qualcuno, la Camusso per esempio, l'ha visto negativamente, dice c'è poco coraggio, si cerca di rimandare questo referendum, a parte che appunto quando comincia la campagna elettorale si congelano, no, i referendum abrogativi. Quindi che cosa significa questo? Voleva dire che è proprio un governo che durerà poco, si voterà presto, come bisogna leggere? Allora, anche se poi ha cercato di raddrizzare il tiro. Sì, direi che è un'uscita improvvida, per usare un eufemismo, nel senso che un ministro della Repubblica non dovrebbe esprimersi auspicando che non si realizzi un referendum. Ma comunque, al di là di questo, è evidente, come dicevo ieri, che il tema del referendum su Job Act è un ulteriore elemento che fa propendere per uno scioglimento anticipato delle Camere. Ma direi che il clima generale, cioè oggi c'è stata di fronte a Montecitorio l'aggressione a un ex parlamentare di Forza Italia. Osvaldo Napoli. Sì, ma non in quanto Forza Italia, in quanto parlamentare. Quando accadono queste cose, cioè è evidente che c'è un clima in cui, secondo me, a mio modesto parere, prima si torna al voto, prima si dà l'opportunità al popolo di esprimersi e di rilegittimare un Parlamento, e il governo che quel Parlamento esprimerà, meglio è per tutti. Quindi, comunque oggi c'è un'anticipazione della registrazione di Porta a Porta di questa sera, dove Guerini, vice segretario del PD, ha detto: non escludo comunque che si possa votare a giugno. Sì, ma appunto io non escludo neanche che si possa votare prima di giugno. Sì, io non escludo neanche questo, che si possa votare prima di giugno, nel senso che mi sembra che ci siano ormai al di là di tutte le resistenze che possano esserci dentro il governo e dentro il Parlamento, la necessità di andare al voto, cioè chi va contro questo rischia veramente di essere spazzato via, e prima i gruppi parlamentari, le forze politiche ne prenderanno consapevolezza, e meglio sarà per loro, ma anche per tutti, insomma. Barbara, per chiudere, ho citato prima i sondaggi su Renzi che sono stati realizzati per Porta a Porta, vedo già dei messaggi degli ascoltatori. Un eventuale partito di Renzi prenderebbe circa il doppio di un PD senza Renzi, sia per IPR che per Tecnè. Il PD attualmente sarebbe al 30%, secondo i sondaggi di queste società di sondaggi. Un partito di Renzi avrebbe invece il 21% per IPR e il 19% per Tecnè, mentre il PD senza Renzi si fermerebbe all'11% per IPR, al 14% per Tecnè. Carmine dice: Renzi merita anche di più perché è l'unico leader che ha cercato di innovare le istituzioni e il paese, ma i conservatori lo hanno fermato. Alle prossime elezioni si capirà che Renzi aveva ragione. Poi Domenico dice: ho i miei seri dubbi, starei attento a dare troppo peso ai sondaggi. Vabbè, i sondaggi sono sondaggi. Il vero risultato è che gli italiani hanno bocciato uno dei pilastri del programma di Renzi, e così via. Tu cosa ne pensi, per chiudere, Barbara? Ma io penso che intanto c'è un elettorato molto mobile. Io lo ricordo sempre questo, perché abbiamo un elettorato che, a differenza che nella Prima Repubblica, in cui le vittorie si facevano quando uno aumentava di 2 punti percentuali, adesso noi vediamo che gli scenari cambiano rapidamente, che i leader anche di queste forze politiche vengono divorati rapidamente. Quindi starei molto attento ai sondaggi di questo momento. È evidente che Renzi ha un consenso di suo importante. E come poi però questo consenso riuscirà a mantenerlo o a incrementarlo, bisognerà vedere, perché il rischio, ricordo sempre Walter Veltroni, quando era segretario del PD e candidato premier, portò il PD al 32,5%, perdendo le elezioni con Berlusconi, ma conquistando un record di consensi. Fu fatto fuori dal suo partito e poi andò in Africa, come ci ricordiamo. Ora io non voglio dire che questo possa ripetersi per Renzi, però certo, come dire, andiamo cautamente, si fanno i sondaggi, sì, così per farci i sondaggi un'idea, vanno poi... bene quando siamo vicini alla campagna, cioè quando si entra nella campagna elettorale, perché fanno allora tempo a cambiare, allora hanno un senso, no, ma perché conosci anche quali sono i giocatori di quella partita, certo, altrimenti così sono hanno un po' troppo senso. Vaghi. Grazie Barbara Fiammeri, a presto. Grazie a voi. Ciao Barbara. Dice appunto un ascoltatore, i media iniziano a lavorare per il reinserimento di Renzi dalla finestra, rivai con i falsi sondaggi. Vabbè, abbiamo detto, hanno il valore che hanno e come diceva giustamente Barbara, poi quando ci si avvicina si sa quali sono i giocatori in campo, allora possono avere un minimo di fondamento. Direi che ci fermiamo brevemente per una pausa di ricreazione e poi proseguiamo tra poco con i prossimi temi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno inclusi nel prezzo. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Continuate con le vostre interazioni con Effetto Notte sulla pagina Facebook del programma oppure al numero 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS. Abbiamo appena parlato nuovamente del governo Gentiloni, neonato governo Gentiloni, visto che oggi ha avuto la fiducia alla Camera, con tutte le domande che girano intorno a questo esecutivo. A proposito dei sondaggi anticipati da Porta a Porta, che danno il 30% per il PD e il doppio se il PD si presenta con Renzi e invece la metà se di un PD senza Renzi, i vostri messaggi ancora con Marilena che dice chissà come reagiranno i saggi D'Alema e Bersani, e poi invece Giacomo che dice discussione sterile perché si va verso un proporzionale che va bene a tutti, Renzi compreso, dice. Ma se non avete acceso puntualmente la radio alle 21 vi dico quali sono le notizie principali. Governo Gentiloni, anche il Senato vota la fiducia, il ministro Poletti dice elezioni prima del referendum sul Jobs Act, il vice segretario del PD Guerini non esclude il voto a giugno. Terremoto, via libera della Camera al decreto. Scalata Mediaset, i francesi Vivendi al 20% del capitale, Berlusconi commenta operazione ostile e il ministro Calenda sottolinea monitoriamo. Siria, salta la tregua, ancora bombe su Aleppo, rinviata l'evacuazione di civili e ribelli, ne parleremo tra pochi istanti. Aleppo, di cui domani parleremo, è stato uno dei maggiori impegni e anche uno dei maggiori non successi, purtroppo, della diplomazia internazionale e anche per la parte che compete all'Italia del sottoscritto negli ultimi mesi. È stata una partita nella quale abbiamo cercato di sperimentare anche i nuovi rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia. Per un certo periodo sembrava funzionassero questi nuovi rapporti tra Russia e Stati Uniti per arrivare a una tregua. Purtroppo questo non si è sviluppato e continuiamo ad assistere a un dramma che offende le nostre coscienze e che l'Aula del Senato credo debba ricordare come una tragedia inaccettabile. Così ha ricordato la tragedia di Aleppo il neo presidente del Consiglio Gentiloni, infatti l'agonia di Aleppo, Aleppo Est in particolare in Siria, prosegue. Ieri la Russia aveva annunciato che la battaglia infinita di Aleppo è finita, che le forze leali al presidente siriano Assad hanno vinto su ribelli e ISIS, ma l'ONU già ieri aveva denunciato che continuavano gli eccidi, che le atrocità e il rischio di un genocidio. Sembrava tra l'altro che dovesse finalmente iniziare una tregua per evacuare i civili, invece pare che questa evacuazione sia fallita. Ma ci aiuta sempre a guardare con lucidità la situazione Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Alberto, buonasera. Buonasera a tutti voi. Quindi Erdogan e Putin parlavano ieri al telefono di questo accordo, di questa tregua, e poi adesso Mosca che accusa i ribelli, che accusano a loro volta Teheran, come sempre una grande confusione poi a danno dei civili in particolare, no, in Siria. Non c'è nessuna confusione. No. Il dramma di Aleppo è l'ipocrisia. Il dramma di Aleppo è che i guerriglieri di al-Nusra, cioè i jihadisti, tengono in ostaggio i civili e non intendono arrendersi alle condizioni del regime di Damasco. A loro volta le truppe di Assad non esitano a bombardare a tutto spiano anche i civili. Gli iraniani, che hanno una parte importante, non vogliono mollare i jihadisti di Aleppo se non in cambio della fine dell'assedio degli sciiti di Fuqa e Kefraya. Russia e Turchia fanno finta di negoziare per salvarsi reciprocamente la faccia. Putin non vuol passare come il macellaio di Aleppo. Erdogan deve farsi perdonare di aver mollato i jihadisti che ha sostenuto fino a ieri contro Assad prendendo i soldi delle monarchie del Golfo. Gli Stati Uniti ad Aleppo si erano impegnati a separare la sorte della guerriglia di al-Nusra, cioè dei jihadisti, dalle altre formazioni di guerriglia. Ma avendo sostenuto anche i qaidisti in funzione anti-Assad, hanno molto da nascondere e poco da dire. Quindi si verrebbe da concludere che quasi ne uccide ad Aleppo più l'ipocrisia che le bombe. Vedete, Alberto Negri ha sempre le idee chiarissime, perché poi lui spesso va anche sul posto. Per noi, vista da qui, davvero, Alberto, con tutti questi intrecci, questi incroci, sembra molto una situazione di caos, di confusione, ma tu sai bene chi sono i responsabili, quali mosse ha fatto uno e quali l'altro, e come dici tu purtroppo, e come ricordava anche Gentiloni, alla fine diciamo che vince l'ipocrisia e perdono i civili. Grazie Alberto Negri del Sole 24 Ore. Buona serata a tutti. Ciao Alberto. Abbiamo adesso la viabilità, aggiorniamo chi sta viaggiando e sempre per i vostri messaggi, dice Lorenzo, a proposito invece della politica italiana, distanza siderale tra cittadini e palazzo, quanto alle capacità dei ministri, siamo in presenza di gente senza alcuna sedimentazione politica ed esperienza. In realtà Lorenzo a volte si rimprovera proprio di averli visti, rivisti e stravisti, e quindi insomma al di là di tutto è proprio forse la qualità, diciamo, della politica, della classe dirigente, al di là dell'esperienza di uno che magari è un volto nuovo oppure un volto assai antico. A tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, ancora una volta le notizie perché avete acceso soltanto da poco. In furia la battaglia su Mediaset a proposito della scalata della francese Vivendi che sale al 20%, e il ministro dello sviluppo Calenda dice sono modalità inappropriate. Berlusconi indignato dice non ci ridimensioneranno. E poi per quanto riguarda il neonato governo Gentiloni, incassa la fiducia anche al Senato, ora dice il Presidente del Consiglio riforme, primo Consiglio dei Ministri, e poi anche oggi il Lega e Ala hanno lasciato l'aula mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contro. Fallisce l'evacuazione ad Aleppo in Siria, ne abbiamo appena parlato, riprendono le stragi, per Mosca la colpa è dei ribelli che accusano a loro volta invece l'Iran. E poi a gennaio la consulta si pronuncerà sul Jobs Act, ma è già battaglia per le dichiarazioni del Ministro del Lavoro Poletti. Tensione a Roma sul caso Muraro, sfiorata la rissa tra il Movimento 5 Stelle e PD, polemiche in aula in Campidoglio durante la seduta di bilancio. E poi questo intervento straordinario a Torino su una bambina di 6 anni, il primo al mondo, è stato trapiantato un rene al posto della milza, una bambina che era in dialisi dalla nascita. Europa 24 notte. Parliamo della riforma di Dublino. Domani in programma un importante vertice europeo che chiude i 6 mesi della presidenza della Slovacchia. Sul tavolo anche un tema cruciale, che è appunto la riforma del diritto d'asilo, da cui dipende molto della crisi dei migranti. Quella che si gioca domani al vertice europeo è una partita importante per l'Italia, ma non solo. Sul tavolo arriva la tanto attesa riforma del Trattato di Dublino, quello per intenderci che regola l'arrivo dei profughi in Europa e che, a detta di tanti, ha provocato gran parte della crisi degli ultimi anni. Insomma, regole da cambiare, ma come? E questo è il punto. La Commissione europea parla da mesi di solidarietà tra i paesi e il commissario Avramopoulos ne ha fatto una parola d'ordine: ognuno faccia la sua parte. The success of our migration policy depends on all our actions, not just one. Ma l'Europa è divisa. Da una parte i paesi del sud, porto di approdo, dall'altra quelli più ambiti come meta finale, Germania in primis, dall'altra ancora il blocco dell'est, il cosiddetto gruppo di Visegrad, che preferirebbe pagare una multa e mettersi l'anima in pace. In tutto questo arriva la proposta della presidenza di turno, quella che approderà sul tavolo. Gli slovacchi, cui spetta la mossa, puntano a scardinare ogni discussione degli ultimi mesi. Niente solidarietà, niente condivisione. E l'Italia, pur assente nei vertici preparatori dei giorni scorsi causa la crisi di governo, su un punto quantomeno è chiara. Questo documento a Roma non piace, comunque la si giri sul piano degli schieramenti politici. Il vertice più al vetriolo è toccato condurlo in qualità di sottosegretario a Domenico Manzione. Guardi, gli elementi più controversi del progetto di riforma di Dublino sono molteplici. Allora, il primo è l'introduzione di una procedura preliminare che in realtà, anziché facilitare e rendere più fluido il sistema, lo complica. L'altro è che rimane tutta integrale la responsabilità dell'esame delle domande e quindi dell'assunzione di responsabilità da parte dello Stato di primo sbarco. L'introdurre accanto a questo concetto l'idea di una solidarietà appunto flessibile che mette nelle condizioni, pagando una data cifra, di evitare di manifestare concretamente la propria solidarietà agli stati di primo sbarco, significa in lungo periodo addirittura creare situazioni surreali, perché se la ripartizione geografica non è né obbligatoria né determinata in base a una serie di criteri, potrebbe dar luogo addirittura a situazioni paradossali, insomma, tutti si potrebbero tirar fuori tranne gli stati di primo sbarco. Dichiarazioni a parte, scorriamo i numeri. I migranti che arrivano sulla rotta del Mediterraneo centrale provengono soprattutto dai paesi dell'Africa subsahariana, quindi Eritrea a parte, tutti gli altri non sono candidabili per la ridistribuzione. Ma anche fatta questa tara, i famosi 160.000 ricollocamenti in 3 anni si sono visti poco, soprattutto a certe latitudini. Ungheria e Slovacchia non hanno offerto neppure un posto e sebbene altri lo abbiano fatto, 140 la Bulgaria, 20 la Repubblica Ceca, 8 l'Estonia, 60 la Lituania, 35 la Polonia, poi non hanno messo in pratica nulla. Ma alla procedura di infrazione non ci siamo ancora per motivi tecnici. Ci siamo invece quasi ad un'altra scadenza, il ritrasferimento dei migranti dagli altri paesi europei di nuovo verso la Grecia, in applicazione del regolamento di Dublino, appunto, a partire dal 15 marzo 2017, perché in Grecia sono stati registrati. E allora, a chi interessa un accordo domani? Ai paesi dell'Est, ma, seppur non apertamente, anche a Berlino e Parigi, che non vogliono trovarsi a discutere della questione migranti in piena campagna elettorale. Con l'Italia più debole e la Grecia isolata, quella di domani sarà una partita importante. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Sono passati 14 giorni ormai dalla tragica serata in cui mi è cambiata la vita e stava per veramente modificare il mio futuro. Ma come vedete mi sto riprendendo, ho il morale alto, la vista sta riprendendo e desidero innanzitutto ringraziare tutti voi che mi avete sostenuto con le vostre preghiere e il vostro pensiero. Io vi prometto che ce la metterò tutta e che tornerò presto in mezzo a voi. Vi mando un forte abbraccio. Lo avete sentito, a parlare così è il primario di cardiologia Stefano Tondi, sfregiato lo scorso 10 novembre con soda caustica spruzzata con un fucile giocattolo davanti alla propria abitazione a Vignola, vicino Modena. E le buone notizie sono due: quella che vi ha appena dato con la sua stessa voce, parlando appunto del fatto che sta migliorando, il morale è alto; la seconda, che sarebbe stato fermato il suo aggressore, inchiodato dal DNA. Ma lo lascio raccontare a Francesco Dondi, giornalista della Gazzetta di Modena. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Quindi è stato individuato l'aggressore? Sì, l'hanno fermato questa mattina mentre si apprestava ad uscire di casa per andare a lavorare. Lui è un tecnico dell'azienda sanitaria locale, non conosceva il dottore, anche perché sono due ambiti diversi, e stamattina, dopo 40 giorni, i carabinieri di Modena sono arrivati al dunque. Fondamentale, come dicevi tu, è stato il test del DNA, che era stato prelevato anche da un bastone con cui questo 59enne di Costrignano di Palagono, che è una piccola frazione dell'Appennino modenese, voleva di fatto finire il dottor Tondi dopo avergli spruzzato soda caustica agli occhi e in testa. Però ci sono poi tante altre valutazioni da fare, perché non è soltanto la vittoria della scienza o la vittoria della scientifica. ci sono anche delle indagini tradizionali che sono state assolutamente determinate da questo punto di vista. Ti parlo delle intercettazioni telefoniche, ti parlo dei riscontri che i carabinieri di Modena hanno avuto, e c'è una piccola chicca che riguarda un autovelox che di fatto ha intercettato il presunto aggressore del dottor Tondi proprio nella serata in cui Tondi è stato aggredito per la seconda volta davanti a casa. Vedi, andare troppo veloce a volte gli autovelox servono anche a questo. Senti, sembra che le motivazioni fossero la gelosia, il desiderio di vendetta perché la attuale compagna di Tondi era l'ex compagna di quest'uomo? Ma sì, diciamo che l'attuale compagna di Tondi e questo uomo si conoscevano da ormai 20 anni, avevano avuto delle vite che si erano incrociate, entrambi avevano creato la loro famiglia, poi si erano ritrovati. Da agosto Stefano Tondi e questa donna si frequentavano regolarmente, poi il dottore aveva interrotto la relazione, ma per una esigenza familiare era dovuto volare in Australia dove vive la figlia, e giusto mentre Tondi non era in Italia, questa donna ha comunicato all'aggressore che aveva avviato questa storia d'amore che stava nascendo, perché non si può parlare di una storia d'amore che dura da appena 3 mesi, ma stava nascendo, e pochi giorni dopo questa comunicazione, che avviene il 26 di ottobre, il 28 inizia tutta la pianificazione dell'aggressione. Quindi c'era tutta anche una pianificazione. Grazie a Francesco Dondi della Gazzetta di Modena. Grazie, buon lavoro Francesco. Buon proseguimento, buon lavoro. Ciao. E adesso saluto e ringrazio Cosimo da Pistoia tra i vari ascoltatori, che dice: giunto adesso al lavoro, pronto a fare la notte, non c'è di meglio che un buon aprinotte come il tuo programma Notte. Dice Cosimo da Pistoia, allora buon lavoro anche a te Cosimo. Direi che per il momento ci dobbiamo lasciare, ci aggiorniamo brevemente come sempre alle 22.